amore suona chitarra, ti hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore, ti amo tanto. Sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, tu accompagni canzoni stonate tra il riso ed il pianto, o mia chitarra, suona chitarra. Quando dico parole d'amore alla mia innamorata, suona chitarra. Quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata, ti amo tanto. Sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento, o mia chitarra. L'amore con te, ti odio tanto, e le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Così mi costa.